giorno perfetto rimane su di me. Giorno perfetto. Lascia che ci stenda come un uragano quel che ormai cresce in noi. Nella notte densa siamo un urlo tra le stelle e noi. Dimmi che ci stai. Immense praterie, immani su di me, facciamo la rivoluzione. Lascia che ci stenda, bevi tutto questo amore e fai che non finisca mai. Lascia che ci stenda questa luce che attraversa noi, dimmi con chi stai.